È nella luce dell'Islam che tra genitori e figli musulmani si crea quel rapporto di sincera amicizia in cui si realizza in modo costruttivo quello che deve essere, ai fini educativi, il rapporto tra genitori e figli nell'Islam. Il rapporto di amicizia è lo strumento educativo migliore che il genitore deve adoperare per inculcare nei figli l'esigenza spirituale del comportamento islamico, perché l'amicizia richiede comunanza di vita, lo stare insieme nel tempo, in modo che nel fare le cose come Allah comanda, il genitore educa il figlio non soltanto a parole. Il genitore musulmano non confina l'insegnamento dell'Islam al solo colloquio, ma lo mette in pratica, poiché egli ben sa che l'esempio è più efficace e penetrante di un lungo discorso. Egli sa che deve andare al cuore di suo figlio, perché sa che nel far dottrina, a parole soltanto, nella maggior parte dei casi l'insegnamento entra da un orecchio e esce dall'altro, mentre è con l'esempio paziente e affettuoso che si arriva al cuore, dove l'insegnamento rimane. La via giusta per guidare al bene è quella del ragionamento, rinforzato dal buon esempio. Per questo motivo i genitori veramente musulmani, di fronte alla responsabilità educativa posta da Allah subhanahu wa ta'ala sulle loro spalle, educano loro stessi a essere buoni genitori musulmani, poiché sanno che il disordine comportamentale che si vede tra gli adolescenti deriva dal fatto che non hanno avuto positivi modelli di riferimento in famiglia durante la loro infanzia e che i figli buoni sono il risultato di buoni genitori, i quali, sapendo ciò che il musulmano deve sapere e ciò che il musulmano deve saper fare, sono in grado di dare loro una buona educazione. Ecco alcuni suggerimenti educativi. I genitori devono mettere il bambino nelle condizioni di avere fiducia in se medesimo e nelle sue capacità, in modo che il bambino sia in grado di non dipendere da altri che da se stesso. I genitori dovranno abituare il bambino a rifarsi il letto, a lavarsi i denti, a fare la preghiera, ad andare a scuola da solo, ad avere cura dei suoi giocattoli, a tenere in ordine la sua stanzetta e in breve guidarlo con tatto e intelligenza a risolvere le difficoltà che deve affrontare ogni giorno. Il bambino che avrà ricevuto dai genitori queste cure sarà, Allah volendo, dotato di una forte personalità e, sempre Allah volendo, riuscirà nella vita terrena e il suo maggior successo lo conseguirà in quella futura. Per ottenere questo i genitori devono abituarsi, controllandoli a debita distanza in modo da poter intervenire alla bisogna, a lasciare che il bambino affronti i problemi da sé senza farlo dipendere da loro. Il bambino va incoraggiato perché l'incoraggiamento gli infonde speranza e lo riempie di gioia. L'incoraggiamento richiede poche parole e raggiunge grandi risultati. Un genitore di successo è quello che riesce a instillare nel figlio una forte volontà, e questo è raggiungibile rafforzando il suo spirito in modo che egli possa essere in grado di superare le difficoltà. Ci sono diverse vie per costruire una discreta forza di volontà. Il genitore saggio non accondiscende a tutti i desideri del bambino, soddisfacendo ogni sua richiesta, anche se non capricciosa. Il bambino deve essere educato alla pazienza, a non esigere facendo capricci. I genitori intelligenti promuovono nel bambino la religiosità attraverso la rinuncia, la prudenza, il digiuno e la preghiera. L'Apostolo di Allah ha detto: insegnate ai vostri figli a pregare quando hanno 7 anni. Il digiuno del mese di Ramadan aiuta la formazione della forza di volontà. Il successo nella vita richiede ottimismo. e un permanente atteggiamento positivo, mentre il fallimento è sempre prodotto dal pessimismo e dal negativismo. È per questo che l'Islam combatte il pessimismo e lo considera una delle qualità dei non credenti. Allah, subhanahu wa ta'ala, dice nel sublime Corano: non disperate della misericordia di Allah. Solo i non credenti, infatti, disperano della misericordia di Allah. Una tradizione profetica dice: siate ottimisti riguardo al bene e ne sarete ricompensati. Alla luce di questi insegnamenti pedagogici di matrice divina e profetica, i genitori musulmani hanno il dovere di dare insegnamenti ed esempi tali da fare dei loro figli delle persone positive, che sono sempre ottimiste e che sempre sperano in Allah, l'Altissimo, fiduciose nel sostegno di Lui, a coloro che, anche nei momenti più bui dell'esistenza, mettono in pratica l'insegnamento coranico e il precetto profetico. Allah invita l'uomo a far uso di tutte le sue capacità, ma l'uomo trascura la maggior parte delle sue potenzialità accontentandosi di realizzare aspetti marginali della vita mondana, trascurando di fare sforzi per raggiungere la salvezza nella vita futura. I genitori devono promuovere nei figli l'amore per lo studio al fine di acquistare il sapere, che è la base del successo nella vita, promuovere nei figli il desiderio di spaziare oltre gli orizzonti quotidiani fino ad abbracciare tutto il pianeta, che è la terra di Allah, del quale l'uomo è in essa il vicario. Per questo Al-Hasan, facendo tesoro degli insegnamenti lasciatigli dal padre, che Allah si compiaccia di lui, nel suo testamento spirituale esortava i figli e i nipoti a imparare per essere pronti a far fronte con successo alle responsabilità della vita. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.